Lavoro assolutamente suggestivo quello di Razgraden Water Towers. Tanto ascoltato appunto in questi due aspetti, è quello di una ritmicità che poi tra l'altro nel lavoro From Beer to Wolf avrà modo anche di esprimersi in maniera proprio più diretta in termini ritmici, e qua invece la sperimentazione è quasi sottotraccia, la ritmicità che tra l'altro si ritrova anche nel pezzo più cosmicheggiante che abbiamo ascoltato dopo. Certo, un cosmo letto con una lente industrial, ma anche con un visivo che va a impattare con tanto di Dark Star di John Carpenter. Se poi perdersi anche in momenti, perdersi ovviamente anche qua appunto alla Dark Star di Carpenter, momenti di grande evocazione, quasi momenti anche tra virgolette molto romantici, che però insomma attraggono e rendono il lavoro anche affascinante. Con romanticismo intendo soprattutto quello spirito, insomma, nel rendere chiara l'emozione, un'emozione anche molto forte e potente, che in questo senso, non nel senso insomma è più sdolcinato e così più conosciuto del termine. E da appunto il bel lavoro di Razgraden Water Towers, che tra l'altro vi invito insomma a seguire anche attraverso i loro vari contatti su internet, appunto arrivandoci attraverso 451 lo potete fare. E passiamo a un altro personaggio che di detriti è stato, come dire, sempre un grande e vorace cannibale, sempre per citare il lavoro di Salvatore Miele e la scrittura anche di Salvatore Miele. E King Midas Sound, Kevin Martin in particolar modo, seppure il progetto di King Midas Sound prevede anche, vede la collaborazione di Roger Robinson. Comunque con Kevin Martin, protagonista negli ultimi 20 anni di suoni veramente al limite dell'autocombustione, potremmo dire, per forza appunto incendiaria. Lavori con God assolutamente incredibili, il jazz core portato verso l'industrial, con Ice quasi a trovare l'estremo opposto, un lavoro di isolazionismo estremo anch'esso, e poi una delle opere più belle nello squarcio di secolo passato, ovvero quello di Techno Animal, l'invenzione l'invenzione oppure lo sviluppo di quello che già c'era come techno industrial hip hop, una coniazione incredibile portata seriamente a compimento dal lavoro di Techno Animal, e con momenti veramente eccezionali di dialettica tra appunto questi tre approdi musicali quasi mangiati vivi appunto da Kevin Martin, con anche una caratteristica del personaggio, con una certa disinvoltura, quasi un certo disimpegno che c'è, ma un disimpegno appunto è quello del buttarsi in maniera così feroce appunto sulle prede, in questo caso musicali, di genere, ma anche appunto il linguaggio sempre portato insomma all'eccesso dal punto di vista globale, si potrebbe dire, da Kevin Martin nei suoi vari progetti. Andiamo appunto a prendere con King Midas Sound, che poi tra l'altro è molto importante per quello che è stato il suono dubstep, quindi anche in questo senso Kevin Martin con questo suono decisamente urbano, potremmo dire, anche qua l'urbanità di delle grandi metropoli che si fa quasi scoria, quasi estremo, ma di fatto estremo appunto al centro, e quindi periferico in tutti i sensi. Suono però che ha una potenza incredibile, e anche in questo disco Edition 1 tra l'altro con la presenza di un Fennez che è veramente inquieto in questo 2015, e già con Osmotic e Air Effect che abbiamo ascoltato qualche settimana fa, riprendeva una delle grandi inquietudini, quelle di un film strepitoso di Cream Arcare, e con appunto un progetto come Air Effect, appunto con Osmotic, che andava veramente un po' a disgregare anche quello che è stato poi la centralità del lavoro di Fennez, soprattutto legato a un glitch, se non a momenti anche decisamente lirici, se non romantici, ad esempio anche nel The Summer, così vi faccio anche un altro esempio di romanticismo, ma non insomma bieco musicale, e collabora appunto con Kevin Martin e con King Midas Sound per questa Edition One, disco molto vario e molto denso appunto di emotività e di suoni insomma ottundenti, non solo, visto che poi c'è anche un riequilibrio appunto di quelle vaghezze pop, dubstep, quell'industria sempre in filigrana che è quasi impossibile, ma che Kevin Martin riesce poi a portare appunto dentro le sue musiche. Ci andiamo appunto ad ascoltare da questo Edition One. Stormy skies E da King Midas, scusate un attimo di così combattimento tecnico tra me e le macchine, ma ci vuole poi stasera, come no, con l'Industrial, direi che è duopo. E, abbiamo ascoltato The Bug, appunto, sempre Kevin Martin, come non omaggiare questo maestro, ormai appunto il lavoro è assolutamente magistrale, è fatto appunto in più di 20 anni da questo sperimentatore indomito, con questo aspetto anche così ruggente, quasi da belva, appunto non ingabbiabile, da belva non domata, come tutti i lavori appunto prima con King Midas Sound e tra l'altro con un Fennez anche abbastanza ritrovato, anche seppur molto ondivago, ma forse è proprio interessante questo momento di Fennez, proprio perché si aggira in maniera inquieta verso i generi, verso i nuovi approcci. E poi appunto Kevin Martin con il progetto strettamente solistico di The Bug, solistico però che si ciba tanto, forse anche più dell'altro progetto King Midas Sound, del ragga, del dancehall però inteso in chiave dubstep, e questo dub industrial che appunto anche lui ha creato con appunto God, Techno Animal, e poi questo incrocio che già è questo scontro tra angeli e diavoli, come si evince chiaramente dallo stesso titolo, Angel and Devils appunto di The Bug, lavoro che si muove appunto su estremi sonori. Con i lavori di Kevin Martin siamo sempre su questi approcci che hanno tanto di pumbleo, come abbiamo sentito nel pezzo immediatamente dopo Edition 1 di King Midas Sound, e poi dopo invece quasi quasi materia desolante, appunto periferica, con questo cantato decostruito, un grime, sì, ma che appunto sembra quasi scoppiato in forme appunto di detriti sonori, di appunto quasi una specie di decostruzione in itere nella vocalizzazione, nell'esperimento appunto della vocalità e anche dell'evocazione che dà appunto questa decostruzione, questo lavoro appunto di smembramento quasi della capacità vocale, appunto anche quella grande anche abilità del grime che proviene dal two step, quindi già da forme pop inglesi legate appunto all'evoluzione, se vogliamo, del rap. E se di evoluzioni, devoluzioni, perché insomma qua i termini e i concetti si vanno anche a incontrare, se non addirittura a scontrare in alcuni casi. Liberez, altra progettualità inglese, gruppo progetto sperimentale, un duo di John Hannon, Tom James Scott, che abbiamo già ritrovato, già trovato anzi qua 451 frammenti sonori, formazione o duo, insomma, progetto che stiamo seguendo, che probabilmente continueremo a seguire visto i valori dei loro album. Questo All Tense Now Lux, altro lavoro eccezionale nello sperimentare appunto con questa materia sordida anche per molti aspetti, che proviene appunto dalla defragazione industrial, quasi a voler ripercorrere certe scene del crimine. Lo fanno anche con una certa disinvoltura, anche Liberez, forse insomma anche in questo senso è magistrale il lavoro di Kevin Martin nella appunto andare direttamente sulla materia sonora, sull'esperimentazione, anche appunto quella più difficile da trattare con non suoni esplosivi o implosivi, come d'altronde dialettica estrema si vuole in buona parte dell'industrial, in quello che sono i detriti appunto attuali e anche, perché no, futuri. Liberez, All Tense Now Lux. Thank you. E da Liberec siamo passati allo scempio completo, proprio ai grandi, ai maestri proprio dello smembramento, del suono più aberrante, più incredibilmente ottundente che ci sia negli ultimi 15 anni, ovvero Wolf Eyes, sempre anch'essi indomiti, sempre con quella disgrazia che li porta a essere sempre innocenti rispetto a questo colpevolezza, poiché hanno in un reato appunto incredibile, un reato compiuto con il sorriso tra l'altro in bocca, quello di compiere appunto scempi sonori con tanto di divertimento e di gioco. In questo caso si fanno accompagnare da altri maestri di questo tipo di operazioni a cuore aperto, ovvero Hunting Lodge, storicissima band americana, anch'essa dedita alla cacofonia e all'aberrazione anche visiva. Ci sono copertine veramente inguardabili di Hunting Lodge, ma anch'essi, proprio andate a cercare le immagini, sembrano veramente una banda di psicotici usciti chissà da quale manicomio criminale, e si uniscono appunto dopo tanti anni, tra l'altro, che non si facevano sentire, proprio con Wolf Eyes qualche tempo fa per un live che insomma era sicuramente da attraversare, e forse anche da imbattersi probabilmente, più che un attraversamento, una vera e propria guerra sonora lì, tra rumorismi insomma di varia taglia, tra quella formata degli Hunting Lodge che provengono dai primi anni 80 a quella più relativamente giovane di Wolf Eyes. Hunting Lodge che andiamo ad omaggiare appunto sul finale di 451 frammenti sonori da Radio Città Fujiko, per questi detriti elettronici, questi elettrodetriti, con proprio il loro primo lavoro 1982, Harrington Ballroom, buona parte del materiale da performance live che si portate da un eccesso invercondo verso il suono, verso veramente la ricerca del detrito, anche del brutto sonoro, detta come va detta, una ricerca che viene compiuta con grande accanimento e grande anche passione da parte dei Hunting Lodge. Non è caso, sono stati ripresi da Wolf Eyes per molti lavori, e poi finalmente insomma portati anche sul palco per collaborare insieme con questo Destroy Compound che abbiamo ancora in sottofondo, ma andando appunto a omaggiare i magistrali, anch'essi cattivi maestri ovviamente, Hunting Lodge, con il loro Harrington Ballroom, vi salutiamo, ci manteniamo ancora su questo morbo, su questi detriti appunto elettronici, e vi rimandiamo al prossimo 451 frammenti sonori, al prossimo anche intersezioni 451 intersezioni di domani, e anche al blog appunto 451.frammentisonori.noblogs.org, di fare bravi, sì, provateci insomma, se ci riuscite. Alla prossima, ciao da Max Macchia.